Radio Doc. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Eccoci dunque alla seconda parte di questo nostro viaggio verso l'America. Da Genova ad Ellis Island, il viaggio per mare ai tempi della migrazione italiana. Una grande mostra raccontata in radio e visitabile al Galata Museo del Mare di Genova. E come dice la nostra guida, Pierangelo Campodonico, direttore del museo e curatore della mostra, è tempo di partire. Siamo a bordo e il primo gesto che veniva fatto fare ai nostri migranti era quello di consegnare i bagagli. Primo perché c'era una preoccupazione di ordine igienico, si temeva, come qualche volta accade per esempio al Vincenzo Florio, che persone che avevano contratto il colera a Napoli nei loro vestiti praticamente passano l'infezione al resto della nave. Allora i bagagli praticamente venivano, non dico spogliati, ma dovevano lasciare la maggior parte dei loro bagagli che venivano chiusi nella stiva, dove c'erano poi delle procedure abbastanza empiriche di affumicazioni di altre cose che cercavano di tranquillizzare, diciamo così, le persone che viaggiavano. E il secondo motivo era quello che i dormitori erano piccoli per moltissime persone e quindi non c'era il posto materialmente per avere più materiale di quello che uno potesse avere in una normale borsa da viaggio, in un normale fagotto, per cui qui siamo si viaggiava. In una di queste qui è proprio una delle situazioni, diciamo, è il dormitorio maschile, è uno dei dormitori, è una frazione di un dormitorio maschile, anche perché normalmente un dormitorio ospitava tra i 100 e i 150 persone. Sono nato a Genova il 22 dicembre 1894, il più grande di quattro fratelli. Mia madre era un'insegnante privata di pianoforte e mio padre Edoardo era dipendente in una tipografia. Conobbi mia moglie, Emilia Marengo, perché lavorava vicino al distretto militare dove prestavo servizio come attendente durante la guerra. Ella lavorava con tutta la famiglia nell'emporio del padre, importatore e grossista di generi alimentari e di spezie. In seguito cominciai a cercare un lavoro fuori dall'emporio di mio suocero. Inviai domande ovunque e alla fine, nel 26, una società mineraria americana mi offrì un lavoro. Io, la mia famiglia e mio suocero lasciammo Genova e partimmo per l'America. C'erano la prima classe, c'era anche la seconda classe, ma io faccio l'esempio che su navi di questo genere, di questo periodo storico, la prima classe era rappresentata da 20 persone, la seconda da 40 persone e la terza, o emigranti, o quello che viene chiamato con un termine secondo me molto significativo dagli americani steerage passengers, passeggeri di stiva, il che sembra effettivamente una contraddizione, ma descrive molto bene perché questi locali erano all'inizio, prima di diventare dei dormitori specializzati, le stive dove veniva caricata la gente e venivano allestite delle brande alla meglio. 20, 40 e qui giù quanti? 2.400, 3.000 persone. Questo dà abbastanza bene l'idea di quale fu il... E anche se il prezzo del passaggio era di 1 a 10 per quelli di prima classe, di 1 a 5 per quelli di seconda, possiamo capire bene quanti denari gli armatori italiani e i genovesi in particolare fecero proprio sul traffico delle migrazioni dei loro stessi compaesani. Mi chiamo Giovanni Giraudo. Sono nato a Valdieri, in provincia di Cuneo, nel 1885 e ho sempre fatto il contadino. A casa c'era tanta miseria e sono andato a lavorare in Francia, in una miniera di piombo e argento. Ma la vita era dura, i polmoni erano piombati e tutte le sere si ci ubriacava per disinfettare un po'. Ma molti giovani sono morti. Così, tornato in Italia, ho deciso di andare in America. Siamo riusciti a ricostruire dei 20 personaggi di cui raccontiamo la storia, di cui abbiamo i passaporti, e i passaporti fanno parte del percorso di visita dei nostri visitatori, proprio i documenti di viaggio di questa persona, e quindi noi possiamo vedere come viene registrato, possiamo vedere quali impressioni ha avuto dal viaggio stesso, quali cose sono accadute, su che nave è partito, su in che date ha percorso, diciamo così, questo nostro, ed è un po' secondo momento all'interno del nostro percorso. Ecco perché è importante sottolineare che all'emozione del viaggio, al distacco, alle complessità economiche si aggiunge questo enorme punto di domanda sull'accoglienza dell'Ellis Island. L'ingresso negli Stati Uniti non era un fatto scontato. Assolutamente no. Diciamo che ovviamente questo secondo momento che è rappresentato, noi adesso siamo nell'area delle scale, sentiamo tutti i nostri emigranti che salgono e scendono dai dormitori per esempio per andare a mangiare, e c'erano anche episodi, perché a bordo di una nave a volte c'erano veri e propri clandestini, persone che, come abbiamo detto prima, che non avevano il passaporto e che con la connivenza del personale tentava di infilarsi all'interno di una nave. D'altronde, se c'era una nave di 3.000 persone, accorgersi del 3.001esimo, e allora si scatenava una specie di cerimonia, chiamiamola così, di procedura. Come la nave aveva lasciato il molo, il capitan d'arme con una squadra di energumeni formata da appunto gente dell'equipaggio iniziavano a percorrere tutta la nave, tutti gli angoli della nave in cerca del clandestino, e quindi tutti dovevano avere il loro biglietto, grandi, piccoli, anziani, bambini, ben in vista, perché altrimenti si veniva presi, portati dal commissario e portati qua nella cella, dove venivano tenuti praticamente segregati fino al momento dell'arrivo a Ellis Island. 30 giorni di nave a vapore, che nell'America noi siamo arrivati. Ecco, qui ci sono i monitor che ci stanno facendo scorrere. Il nostro viaggio finalmente arriva alla fine e noi vediamo Liberty Island, e quella che si vede dietro è Ellis Island, che è la meta del nostro viaggio. Viaggio, e predisponiamoci, tornando in dormitorio, adesso entreremo nel dormitorio femminile, a preparare i nostri materiali per entrare a Ellis Island. Ellis Island è il momento della verità. Ecco qua, possiamo guardare dei nostri oblò, il nostro mare virtuale nel momento del passaggio, ed eccoci in un luogo altrettanto umido, fetido, che è il dormitorio delle donne, dove stavano donne e bambini. E qui c'è un piccolo, diciamo così, vantaggio, un benefit nei confronti delle donne incinte. Se una donna era palesemente incinta col certificato medico oppure si vedeva col pancione, le era attribuito una brandina più larga. Invece dei 57 centimetri di ordinanza che erano dati a tutti gli emigranti, non ne controllavano il peso, veniva data una brandina di oltre 70 centimetri, dove poteva stare più comodamente. E qui è in mezzo ad altre brandine. Quindi non possiamo immaginare quale genere di ginnastica queste povere donne potessero fare. Eccoci, stiamo finalmente lasciando la nave, si spalancano i portelloni, saliamo sul ferry boat ed ecco che noi arriviamo ad Ellis Island. America! Allegra! 19 marzo 1915. Cara zia, ora sono nella grande, ansiosa America. È 4 giorni che sono insieme la mamma, ma io ho già il posto da andare. Siamo stati 15 in mare, 6 giorni e 6 notti in treno, 21 in tutto il viaggio. Io sono stata la più in salute che c'era. Ho sofferto niente, io ero contenta. Invece zia Carolina ha sofferto molto, che i primi giorni non mangiava più niente. Io non sapevo più cosa farne. Io che mi facevano così tanta paura sono passata bene. E zia è ferma ancora là, a New York. Il zio Gigi ha dovuto mandargli le carte e poi non si sa se la lasciano ancora venire. A me mi hanno domandato dove andavo, che paese, chi andavo a raggiungere e quanti denari avevo. E poi niente altro, né passaporto né quanti anni. Che di chi ero accompagnata sono stata la prima del nostro paese. Ma che io avevo coraggio. Mi sono rimasta là 3 ore solo. Poi sono partita in treno. Il mare, poi, 9 giorni bello e 4 giorni in borrasca, pioggia, tempesta, vento terribile, ma io non avevo paura, ma che, dicevo, se andavo era una volta sola. Pregavo, cantavo, in quei giorni avevo un coraggio, badavo paura di niente. Ho fatto tutto il viaggio in treno, da New York alla California, insieme all'Antonio, mi ha voluto sempre bene. Siamo arrivati alla stazione, sono andata dal Mazzina, egli telegrafò al zio Gigi. Fra una mezz'ora arrivò il zio Abele a prenderci col cavallo. Sono arrivata in casa di zio Gigi alle 8 di sera. C'era Elmo. M'hanno fatto una bella festa per il mio arrivo. Alla primo il fratello della Renogna che il salva. Elmo il Denarigni e l'altro di Set. Il Nando e la sua moglie m'ha cercato me, ma io non ho voluto andare. Di nuovo ti saluto. Addio e arrivederci. Ancora il padrone mi vuole tanto bene. Dille con la nonna di ricordarsi di quella che la faceva ridere. Un bacio alla cara Emma e mandami il suo ritratto. Ciao, Dina. Mi saluterai tanto la tua famiglia. L'emigrazione è stato un tema estremamente studiato, ma rimasto all'interno delle università, degli istituti di ricerca, di cerchie piuttosto ristrette di persone che se ne sono occupate, delle associazioni degli italiani nel mondo che si trovano un po' da ogni parte. Ha dato vita al pullulare di molte bellissime iniziative locali dove si rivendica l'emigrazione della mia terra. Ecco, io se dovessi dire che cosa abbiamo voluto fare al Galata Museo del Mare, che non ha queste caratteristiche, perché non è un piccolo museo locale, ma è un grande museo marittimo a livello nazionale e internazionale, è proprio fare un passaggio diverso, essere il volano di una coscienza più grande, perché il tema dell'emigrazione io credo che riguardi tutti gli italiani, perché ciascuno di noi in famiglia ha avuto qualcuno, io personalmente ho avuto mio zio, mentre l'altro ramo della mia famiglia era andato nel Sud America, mio zio invece è andato negli Stati Uniti ed è passato per Ellis Island, e tra tante carte della mostra ci sono anche appunto quelle dello zio. Ma vorrei dire che ogni famiglia di italiani ha una storia di questo genere. Allora, nel momento in cui l'emigrazione per noi rappresenta un problema a livello della sicurezza, io credo che la consapevolezza di essere anche noi figli la storia di emigrazione ci aiuta a capire meglio il problema dell'emigrazione, a vederlo come un aspetto più articolato. Vorrei dire, come ha già diverse volte ribadito Gian Antonio Stella a partire da quel bel libro che era Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, che c'è stato un momento storico in cui anche noi abbiamo rappresentato il gradino più basso dell'immigrazione a livello internazionale. È importante che non ce ne scordiamo, è importante che ce l'abbiamo presente, perché tante volte le catastrofi umanitarie che abbiamo di fronte e le morti dei clandestini che avvengono effettivamente a centinaia, a migliaia, ci ricordano una storia drammatica che la nostra nazione, il nostro popolo ha vissuto e in qualche misura è condannato a riviverlo, magari sotto un aspetto differente da coloro che si approfittano dell'immigrazione piuttosto da coloro che l'hanno subita. 29 milioni di italiani lasciarono il paese tra il 1875 ed il 1950. Le storie di alcuni di loro sono oggi raccolte al Museo del Mare di Genova, nucleo del Museo Italiano dell'Emigrazione. Le immagini e lo speciale che avete appena sentito lo potete trovare su www.radio24.it. Un saluto da Gigi Donelli.